lamentela classica nei confronti del linguaggio è quella che verte sulla sua presunta polisemia. Si dice che siccome una parola in un contesto può voler dire una cosa e in un altro contesto tutt'altra cosa, si dice che il linguaggio naturale si porti appresso indelebile questa colpa originaria. Sulla questione in verità ci sarebbe da sottilizzare parecchio, perché in realtà il parlante quando parla è sempre univoco, può dire una cosa soltanto, perché le sue parole designano e possono designare quelle operazioni mentali, quelle che compie, e non altre. Ma tant'è la confusione in materia di linguaggio ingenerata dai filosofi è tale che il mondo sembra essere pieno zeppo di gente che ritiene il linguaggio uno strumento equivoco e poco affidabile, perché poco efficiente. E resta il fatto che le parole vengono accusate di riferirsi ad una molteplicità di significati. La questione allora, dico io, non concerne soltanto le parole. Me ne sono accorto da quando ho preso a riflettere sulle precauzioni che occorre prendere nell'uscire da un gabinetto. Perché ho scoperto che bisogna essere particolarmente guardinghi in queste occasioni. Ne può andare del destino di una persona. Primo episodio. Mi trovo in una casa amica in un momento di visite e congedi. C'è lui, c'è lei, c'è l'amico di lui, ci sono ragazzi che vanno, ragazzi che vengono. Finiamo da un momento tutti in corridoio, siamo ad un mezzo congedo, ma diciamo che l'attrito della chiacchiera è ancora forte. Lui, nel frattempo, entra in bagno, dice un attimo, le chiacchiere proseguono. Come lui esce, il suo amico lo coglie come il segnale di partenza e mi porge la mano che stringo affabilmente. Innescato il processo dei saluti, anche lui, lui che è appena uscito, non può sottrarsi e si trova a dover replicare il gesto dell'amico porgendomi anch'egli la mano. Gliela stringo volentieri. È bagnata. Lui sa che è bagnata. Maledisce in cuor suo l'idea di darmi la mano, non sa che la colpa è dell'amico che mi ha dato la mano per primo ed ha ingenerato il meccanismo ripetitivo. Lui sa che è bagnata e sa che ovviamente lo so anch'io che è bagnata. È appena uscito dal bagno, dopo aver detto un attimo, e dopo esserci stato non proprio un attimo, ma giusto il periodo che può corrispondere ad una nozione metaforica di attimo che consente l'esecuzione di certe funzioni e non di altre. Ha la mano bagnata e adesso anch'io ho la mano bagnata. Che si fa? Si tace, si tira fuori entrambi un fazzoletto e ci asciughiamo fischiettando, celiando e parlando d'altro? A quanto sembra no. C'è un attimo più attimo questa volta, un attimo di irrigidimento, e poi lui, che è un amico, dice non è pipì, e scarica su di me il peso di spiegarmi urbi e torbi alla compagnia perché non è pipì l'ha detto a me, e gli altri staranno chiedendosi che cosa non è pipì e cosa c'entra questa mancata identificazione con tutto il resto delle pratiche di congedo. Io credo di cavarmela dicendo che l'immaginavo, e lui finalmente spiega che è stato in bagno a far la pipì, che poi si è lavato le mani, che non se le ha asciugate bene, che mi ha bagnato le mie e che la situazione è diventata tale per cui sono occorse delle spiegazioni. Secondo episodio. Sono solo. Sono in un ufficio dove lavorano parecchie persone, ma è tardi. Sono solo, tutto è silente e il buio avanza. Vado a far la pipì. Non incontro un'anima. Faccio la pipì e mi sciacquo le mani. Mi guardo intorno e trovo un asciugamani ridotto a tal punto che uno poi le mani dovrebbe rilavarsele e disinfettarsele per bene. Decido che lascio il processo di asciugamento alla natura ed esco. La porta accanto a quella del bagno è quella dell'ufficio dell'avvocato che oggi non c'era, ma che è inequivocabilmente, maledizione, in piedi, sulla porta è lì proprio adesso. Dico: «Oh, avvocato!» E lui mi fa: «Carissimo professore!» e mi porge la mano. Mano che non posso non stringere calorosamente. Brava persona l'avvocato, brava persona che tuttavia ha un attimo brevissimo di smarrimento, perché ora, in quel preciso momento, ha la mano bagnata. Vedo occhi e sorriso in evoluzione che fanno 2+2. La cane è uscito dal cesso, mi ha stretto la mano, ecco perché ho la mano bagnata. Glielo dico o non glielo dico? Poi finisce che non glielo dico. Come faccio a dire all'avvocato che non è pipì? Con lui ho paura che non sia come col mio amico. Il nostro rapporto è tale che non è pipì, non posso permettermi di dirlo io e naturalmente nemmeno di chiederlo lui. Ci si lascia alla svelta, ognuno per il proprio ufficio, ognuno con il proprio cruccio segreto, lui che si asciugherà con il fazzoletto appena chiusa la porta, sperando che non sia pipì, io che ora so che al mondo le cortesi maniere, il galateo e la simmetria dei rapporti sociali che ogni galateo implica hanno fatto sì che sia più conveniente lasciar credere che qualcosa sia pipì o sia acqua, uno dei due, piuttosto che dire che non è pipì. E io che ora so che polisemiche non sono soltanto le parole, ma qualsiasi cosa, anche poche gocce d'acqua, purché messe al momento giusto, nel posto giusto.